Personalmente penso che sì, questa volta diciamo possiamo essere più ottimisti, innanzitutto perché all'annuncio diciamo letto il 21 marzo scorso, cioè il giorno del Newroz, dell'appello fatto da Abdullah Öcalan dal carcere alla guerriglia appunto per deporre le armi, diciamo per ritirarsi, ecco, non per deporre le armi. Per ritirarsi in territorio sud Kurdistan e quindi iracheno, sta facendo seguito appunto la decisione dei comandanti della guerriglia di effettuare effettivamente questo ritiro. Per ora si tratta di due gruppi di 15 guerriglieri ciascuno, che sono arrivati circa 2 giorni fa. È una notizia confermata sia dalle fonti appunto della guerriglia sia da giornalisti che numerosi sono andati appunto diciamo nelle basi della guerriglia in territorio iracheno a verificare, diciamo così, giornalisti internazionali che hanno potuto vedere l'arrivo di questi primi due gruppi per ora. Chiaramente maggiori dettagli sugli spostamenti è difficile averli in questo momento perché voi capite che è un processo piuttosto delicato. Il comandante della guerriglia Murat Karayilan ha anche specificato, anche precisato che se ci fossero comunque degli attacchi da parte dell'esercito turco nei confronti dei guerriglieri che si stanno ritirando, secondo il principio del diritto all'autodifesa, i guerriglieri risponderebbero, quindi non ci sono attacchi, questo già dura da un po' in realtà da parte della guerriglia. Continuano però, ahimè, le attività militari, anzi, diciamo che l'esercito turco sta approfittando della situazione per costruire rapidamente anche avamposti militari in luoghi dove prima non era possibile perché erano punti controllati dalla guerriglia. Non è un bel segnale, diciamo, perché in questo momento al segnale di buona volontà della guerriglia di ritirarsi si risponde continuando comunque un'attività militare. Questo però può essere anche in parte spiegato con la necessità anche da parte del governo turco di non dimostrare alle opposizioni, soprattutto il Partito Repubblicano del Popolo, quindi il Partito Kemalista per intenderci, e il Partito Nazionalista, quello dei Lupi Grigi, che non sta, diciamo così, tra virgolette, calando le mutande davanti alla guerriglia, quindi insomma, alla proposta anche di Öcalan di negoziato. Nello stesso tempo, per il momento, fortunatamente, non ci sono stati atti di provocazione gravi nei confronti dei guerriglieri, come in realtà è avvenuto già anni fa. Questo ricordo non è la prima volta, poi appunto tu pure lo ricordavi, non è la prima volta che il movimento curdo e PKK offrono una tregua, offrono un cessate il fuoco, diciamo come primo punto di partenza però per poter andare avanti con un negoziato. E le volte scorse diciamo che nulla poi è andato in porto perché dall'altra parte, diciamo da parte turca, non si è tenuto conto di ciò, non si è comunque voluto riconoscere l'avversario come negoziatore, continuando a bollarlo come terrorista, e quindi non se ne è fatto più nulla. Questa volta appunto l'inizio c'è. Diciamo che però non può ridursi il tutto alla fine del conflitto armato perché i curdi, il popolo curdo, tutti i curdi chiedono finalmente il riconoscimento dei propri diritti, quindi anche una discussione sulla nuova Costituzione, su alcune modifiche importanti da apportare alla Costituzione, il riconoscimento dei diritti linguistici, culturali. La proposta, ricordo in sintesi, di Öcalan, insomma, del movimento curdo, è quella di avere un'autonomia democratica all'interno della Turchia, quindi non più un'indipendenza, non più uno Stato separato, però un'ampia autonomia, il che significa che i curdi chiedono anche di gestire le loro vite in prima persona, dal basso, attraverso meccanismi democratici che non sono semplicemente quelli appunto statali, ma come diciamo, stanno cercando anche di fare i curdi in Siria, nelle zone controllate dai curdi al confine, diciamo, tra la Siria e la Turchia, dicevo che siano appunto limitate sempre più e che diano finalmente la voce, il diritto a esistere al popolo curdo. Senti, segnali da parte turca, diciamo, al di là di questa operazione di fortificazione di casematte o presidi là dove adesso è possibile, e ce ne sono stati a livello politico, almeno a livello di dichiarazioni, insomma, si percepisce un minimo di mutamento dell'area per quanto riguarda Ankara, oppure c'è ancora, come dicevi giustamente tu prima, insomma, il terrore di dimostrarsi troppo morbidi di fronte alla propria opinione pubblica interna? Diciamo che un po' questo accade, però è da registrare in un paese come la Turchia, dove la stampa, quella chiaramente ufficiale, la stampa turca, è da sempre e con Erdogan in più legata al governo, quindi diciamo è pratica. A volte una forma anche di autocensura, perché parlare, diciamo, come voce fuori dal governo costa parecchio anche ai giornalisti. C'è da registrare, dicevo, un interesse e un parlare molto dell'argomento sulla stampa turca, cosa che prima non accadeva, quindi sicuramente questo è già di per sé un segnale che da parte del governo turco l'intenzione c'è. Diciamo, non per bontà d'animo, chiaramente per calcoli politici e per valutazioni politiche. Erdogan punta comunque a far approvare delle modifiche alla Costituzione in senso presidenzialista. Molto probabilmente, diciamo così, per proporsi poi successivamente come Presidente della Repubblica in un quadro quindi istituzionale nuovo e diverso della Turchia. E adesso anche la necessità di non perdere troppi consensi. Questo negoziato in realtà gli fa perdere consensi, quindi comunque diciamo che sta rischiando anche il primo ministro in questo processo, però ha anche degli interessi a farlo andare avanti. Ci sono altre forze che potrebbero non volere la stessa cosa. E chiaramente la storia della Turchia già lo insegna: molto spesso quando ci sono state possibilità di aprire un negoziato, forze dello Stato profondo legate agli apparati anche dei servizi segreti hanno lavorato per sabotare questi processi. C'è la questione anche siriana aperta, che è molto complessa e dove la Turchia, diciamo, ha adottato anche una politica estera contro Assad, mandando, anche finanziando e sostenendo e organizzando anche sul territorio l'invio di militanti anche islamici dalla Turchia verso la Siria per combattere contro l'esercito di Assad. E tutto questo ha provocato anche, chiaramente poi la guerra in Siria ha provocato anche un flusso di richiedenti asilo, rifugiati siriani verso la Turchia. E, insomma, diciamo che molta, molta è la carne al fuoco. E tornando, diciamo, al negoziato, è difficile capire, appunto, essere sicuri che questo andrà avanti, perché i passi poi devono essere fatti e il quadro è molto complesso, come dicevo. Però effettivamente, diciamo, questa volta potrebbe avere qualche base in più. Purtroppo c'è da registrare in questo quadro che vi dicevo due attentati, due autobombe l'11 di maggio in una cittadina che sta nella regione di Hatay, che è una regione della Turchia al confine con la Siria, e che ha provocato al momento sembra una sessantina di morti, ma molti altri feriti, e potrebbe, insomma, salire il bilancio di queste due autobombe. E il governo turco si è affrettato a dire che era un'operazione legata ai servizi segreti siriani, quindi ad Assad. In realtà da alcune testimonianze, insomma, da quello che è stato raccolto, dalle testimonianze raccolte anche dai rifugiati siriani che stanno lì, loro dicono che sono stati che è stato l'esercito siriano libero, cioè sono stati i cosiddetti ribelli che combattono, l'opposizione che combatte ad Assad, a organizzare questi due attentati, questi simultanei. E tra l'altro la situazione è molto pesante, perché in quelle zone gli abitanti se la stanno cominciando a prendere con i rifugiati siriani, dicendo che appunto sono troppi, che destabilizzano la regione, facendone oggetto tra l'altro a volte di linciaggi, quindi insomma una situazione molto preoccupante e per niente semplice. Senti, ma in questo contesto, che comunque insomma ovviamente è molto difficile, molto complicato, a volte anche confuso, le resistenze da parte turca arrivano più dalla destra classica, chiamiamolo così, laica, kemalista, oppure dalle formazioni islamiste che appoggiano il premier, sempre se diciamo ci sia una differenza di visione per quanto riguarda la vicenda curda? No, le differenze ci sono, diciamo che all'opposizione, parliamo della vita pubblica, quindi dei partiti presenti in Parlamento, quelli che si oppongono di più a questo negoziato sono naturalmente la destra nazionalista, quindi come dicevo legata ai lupi grigi, quindi il MEP, il partito che noi qui definiremmo fascista, e che è comunque presente in Parlamento e che storicamente è da sempre avverso al PKK, alle rivendicazioni curde, alla sinistra e a tutto quello che può esserci, insomma, in questo senso. L'altro partito è invece quello appunto kemalista, il GEP, il Partito Repubblicano del Popolo, che comunque negli ultimi anni aveva a volte preso anche delle posizioni più vicine alle rivendicazioni curde, non certo sposando la causa del PKK, intendo dire cercando, no, di prendere anche consensi all'interno della popolazione curda, parlando un linguaggio di apertura, di dialogo. Quando però poi il negoziato ha cominciato effettivamente a essere reso pubblico e quindi ad avere dei passaggi pubblici, tra cui per esempio la costituzione di una commissione di saggi di saggi, eccetera, che sta facendo un giro, no, delle varie regioni della Turchia per raccogliere le opinioni dei cittadini, della società civile, dei partiti, dei sindacati a proposito del processo di negoziato. Lì diciamo ha alzato le barricate, ma io penso per motivi più che altro politici di strategia nei confronti del partito di Erdogan, perché chiaramente se questo negoziato va in porto sarà un grande successo anche per il partito dell'HP, che è il partito di Erdogan, che è molto diverso dal GEP perché è un partito di ispirazione islamico moderata, si dice, comunque non certo il baluardo del laicismo, della laicità, scusate, e della Repubblica Turca, che era nelle intenzioni di Mustafa Kemal, fondatore e padre della patria, dall'inizio, insomma, della Turchia, dalla fondazione della Repubblica Turca, che sono invece i valori a cui si ispira il GEP. Quindi questa è la valutazione che faccio io. Ce ne saranno sicuramente altre possibili, però ecco, spiegato secondo me il perché anche il GEP ha cominciato a criticare questo processo di negoziato. Va benissimo. Senti, un'ultimissima cosa volevamo chiederti in chiusura: il fatto che ci sia stata questa decisione da parte dei guerriglieri, insomma, comunque di una buona parte della guerriglia curda di spiegarsi dall'altra parte della frontiera successivamente all'appello di Öcalan, che ricordiamo sempre si trova rinchiuso in un'isola in stato di isolamento, vuole significare anche che comunque Öcalan rimane in ambito curdo il leader riconosciuto, ecco, nonostante Direi assolutamente di sì, molti magari tendono a vedere questo come una dimostrazione di un movimento verticista, che in realtà la richiesta, la proposta di roadmap di Öcalan è qualcosa che poi viene esistato e tuttora viene discusso nella società curda e anche all'interno della guerriglia. La guerriglia certo ha dei comandanti, ma nonostante questo qualsiasi guerrigliero, dal più giovane al più esperto, vengono chiamati a esprimersi, a dire come la pensano, a discutere, a valutare, tant'è vero che nei giorni poi successivi al 21 marzo sono emerse, nel mese successivo sono emerse posizioni anche un po' diverse. Dopodiché però la proposta di pace è stata assunta dall'intera guerriglia curda, e la decisione è stata per l'appunto quella di ritirarsi dai confini della Turchia e quindi di andare di spostarsi in Sud Kurdistan, ribadendo però che non finisce così, cioè che le armi non si depongono, che se la Turchia non va avanti facendo i suoi passi necessari per l'appunto cambiare la Costituzione, per garantire i diritti dei curdi, aprire all'autonomia democratica, che saranno passaggi delicati e richiederanno tempo, quindi nessuno si aspetta che in poco tempo ai curdi verranno dati tutti i loro diritti, ma che comunque fino a quando questo non avverrà i guerriglieri si ritireranno e valuteranno i vari passaggi. Quindi penso che questo sia stato detto chiaramente e io ritengo che sia una legittima decisione che non toglie, anzi appunto rafforza anche la capacità unificante che ha tuttora Abdullah Öcalan, seppur, come dicevi tu, dal 99 in isolamento.